GR Europa. Buon pomeriggio da Gigi Donnelli. L'Europarlamento boccia l'accordo UE sul bilancio 2014-2020 ed esige delle modifiche. A Strasburgo è stata approvata una risoluzione che respinge l'intesa dell'8 febbraio tra i capi di Stato e Governo, perché il bilancio UE nella sua forma attuale non riflette le priorità dei deputati. Questo è un giorno molto importante per la democrazia, è la prima volta che il Parlamento respinge quello che viene deciso a livello di capi di Stato di governo. Questo è il commento del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Ma allora, la crisi mina davvero le basi della democrazia europea? Sì, ma non è solo colpa della crisi, dice Luigi Livi, presidente del Movimento Federalista Europeo, intervistato da Laura Bettini. Chi governa l'Europa? Scegliamo chi governa l'Europa? No, chi governa l'Europa sono i governi nazionali riuniti in quell'organismo, i capi di Stato e di governo, che non rispondono al popolo europeo. Nel Consiglio europeo, secondo lei, c'è chi governa più di altri? Ah certo, è la Germania che detta le regole in questo momento. Ma a suo giudizio l'Europa, con la crisi in corso, va più verso la disgregazione o il rafforzamento? La mia speranza e il mio impegno politico va verso la seconda. I governi hanno deciso di imboccare una nuova strada quando, di fronte alla crisi, hanno deciso di approvare due trattati internazionali al di fuori delle istituzioni europee, il cosiddetto Fiscal Compact e il Fondo Salva Stati. Però il limite di queste decisioni sta nel fatto che sono senza sviluppo, senza equità e senza democrazia. Questi valori possono essere conquistati soltanto mettendo nelle mani del popolo europeo le decisioni. Quindi ci vuole un'assemblea costituente per una carta costituzionale europea. Europa che intanto rafforza il controllo sui bilanci dei paesi comunitari. Sentiamo il servizio di Sergio Nava. Bilanci nazionali sotto il controllo dell'Europa a partire da ottobre. Con un voto a stragrande maggioranza, l'Europarlamento ha approvato ieri il cosiddetto CPEC, regolamento che prevede una novità fondamentale. A partire da questo autunno, tutte le manovre finanziarie nazionali, cominciando con quella del 2014, dovranno essere presentate a Bruxelles entro il 15 ottobre per una valutazione preventiva da parte della Commissione. I commissari potranno a quel punto presentare un parere o chiedere addirittura modifiche ai governi. Un'innovazione rivoluzionaria che rafforza il controllo comunitario su bilanci, la cui gestione si è rivelata fin troppo allegra in passato. Come ha fatto notare il commissario agli affari economici Olli Rehn, se questo controllo fosse iniziato contestualmente al varo dell'euro, oggi ci troveremmo con una crisi finanziaria meno severa. Gli eurodeputati hanno però inserito una clausola che obbliga la Commissione a non bocciare misure orientate alla crescita nel nome del rigore. Una svolta interessante per paesi come l'Italia. L'altro regolamento della CPEC riguarda invece l'applicazione delle norme sulla sorveglianza multilaterale ai paesi dell'eurozona in difficoltà. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rafforzare i diritti dei passeggeri con procedure di reclamo più efficaci, prevedendo la loro protezione e la loro spostamento sui voli alternativi quando restano a terra. Questo è l'obiettivo di un pacchetto di nuove misure proposte oggi dalla Commissione UE. La proposta aggiorna i diritti dei passeggeri, introduce l'obbligo di informare su quanto sta avvenendo non oltre i 30 minuti dopo l'ora di partenza prevista. Staremo a vedere. Per ora è tutto con GR Europa. Un saluto da Gigi Donnelli. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.